Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Qui si porrà, presso le nostre porte d'Occidente lavate dal mare, una donna possente, e recherà una torcia, e la sua fiamma è il fulmine in catene, e porta il nome di Madre degli Esuli. Dalla sua mano brilla il benvenuto al mondo. Restino pure a voi, o terre antiche, le ricchezze accumulate, grida con le sue mute labbra. A me rendete i vostri miseri, i vostri poveri, le vostre masse oppresse e soffocate. Lasciate a me i derelitti della vostra costa brulicante. Mandate questi senza casa a me, sbattuti dai marosi. Io qui levo la mia torcia accanto alla porta d'oro. È una bella giornata del 1883, quando la poetessa ebrea nordamericana Emma Lazarus entra nell'eternità della letteratura attraverso una porta singolare. A New York si celebra un evento dedicato a raccogliere fondi per la costruzione del gigantesco piedistallo che deve sostenere una enorme statua. Si tratta di un'opera dalle proporzioni impressionanti che la Francia offre agli Stati Uniti d'America in occasione del primo centenario dell'indipendenza. In tale occasione, Emma Lazarus scrive un componimento intitolato Il Nuovo Colosso, in cui la poetessa, a metà strada tra la millenaria e persistente tradizione ebraica e la nascente cultura letteraria e sociale nordamericana del XIX secolo, esalta la generosità senza limiti con cui la giovane Repubblica apre le braccia ai migranti del mondo. Incisi su una placca di metallo, incastonata in quel piedistallo per cui sono stati creati, i versi di Emma Lazarus generano un dialogo tra il nuovo mondo, che inizia a dire le sue prime parole, e una folla di 12 milioni di immigranti, che da quel momento sino ai giorni nostri, attraverso Ellis Island, arriva a calpestare il suolo americano. Un numero impressionante, come sottolinea Steve Briganti, della Ellis Island Foundation. Ellis Island è un luogo assolutamente simbolico per la popolazione americana. Non era l'unica via d'accesso, ma sicuramente era la principale. Si può dire che sia il sito di immigrazione più grande mai esistito al mondo. Le persone venivano qui alla ricerca di quello che a casa loro non avevano: un lavoro, la possibilità di una vita decorosa, soprattutto la libertà. Ma cosa sostiene il piedistallo che Emma Lazarus promuove con tanta generosità e con l'ardore tipico dei poeti? I suoi versi parlano di una donna possente, della madre degli esuli, della porta d'oro che apre le sue braccia ai migranti che da ogni dove giungono sull'accogliente suolo americano. Una donna che reca una torcia in mano e con il piede calpesta e spezza una catena. Essa è il simbolo massimo della libertà, la rappresentazione stessa del desiderio estremo di ogni individuo di affrancarsi. È la libertà che illumina il mondo, meglio conosciuta a tutti, con il nome di Statua della Libertà. Monumento simbolo di New York e degli interi Stati Uniti d'America, essa svetta all'entrata del porto sul fiume Hudson, sulla rocciosa Liberty Island, un tempo chiamata Bedloe's Island, come ideale benvenuto a tutti coloro che arrivano negli Stati Uniti. Ma nel secolo scorso, per chi è alla ricerca di una vita migliore, la statua, prima immagine che gli immigrati vedono dell'America, rappresenta un simbolo di benvenuto e di speranza. Libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. Oggi Destini Incrociati vuole raccontarvi la storia della Statua della Libertà, di questo simbolo universale di accoglienza e di fratellanza tra i popoli, sogno di milioni di uomini e donne in tutto il mondo, dichiarato patrimonio dell'umanità nel 1984. Voluta ardentemente da molte persone, ha visto la luce grazie a due uomini che hanno saputo unire le rispettive capacità e la passione per questo progetto. E allora partiamo per questo viaggio, alla scoperta della donna più popolare d'America che, paradossalmente, è nata in Francia. Il periodo storico che fa da sfondo alla nostra vicenda è la guerra franco-prussiana del 1870 e la successiva nascita della Terza Repubblica Francese. Definito il conflitto più importante combattuto in Europa tra le guerre napoleoniche e la Prima Guerra Mondiale, la guerra franco-prussiana si conclude con la completa vittoria della Prussia di Otto von Bismarck e la fine del regno di Napoleone III. La caduta dell'impero rappresenta per la Francia l'inizio di un regime repubblicano che per dimensioni e influenza diviene il più importante tra quelli allora esistenti nel continente. Tra gli strenui combattenti francesi ve n'è uno, un giovane ufficiale alsaziano, che sente particolarmente questa guerra perché sa che la sua terra, molto prossima al confine con la Prussia, rischia di essere invasa dal nemico. Lo storico Marzio Conti traccia un quadro molto chiaro della situazione. Avviene nel 1870, vede il crollo dell'impero in Francia, l'impero di Napoleone III, vede l'unificazione della Germania, quindi la nascita di una nuova grande nazione, la Germania appunto, e vede anche così la creazione di un contenzioso tra le due nazioni, perché la Germania si terrà l'Alsazia e la Lorena e questo susciterà in Francia una sorta di spirito di rivincita, di volontà di rivincita. Si parla di esprit de revanche che resterà fino alla Prima Guerra Mondiale e che sarà una delle cause che porterà i francesi ad aderire, ad entrare in guerra con un certo entusiasmo, cioè l'idea di vendicarsi, di riprendersi quei territori che gli sono stati tolti. Il giovane ufficiale alsaziano, che teme per la sua patria, si sta infilando una camicia. Ma non è una camicia qualsiasi, è di un bel colore vermiglio. Indossa sempre una camicia rossa e tutti lo conoscono anche per questo motivo. Il suo nome è Frédéric Auguste Bartholdi. Frédéric Auguste Bartholdi. Allo scoppio della guerra, il giovane si mette immediatamente al servizio del comando di zona, che lo nomina ufficiale di collegamento incaricato di provvedere ai rifornimenti tra il governo francese e gli italiani. In questo conflitto, come in pochi altri, alle truppe regolari si affiancano numerosi reparti autonomi, tanto che nasce addirittura un modo di chiamarli. Sono i cosiddetti franc-tireurs, che agiscono per conto proprio. È da loro che deriva il termine franchi tiratori, con cui vengono oggi definiti in politica coloro che, pur facendo parte di un determinato schieramento, votano in maniera differente da quanto deciso dal partito. Naturalmente, tra i franchi tiratori non si può pretendere uniformità di organizzazione, di addestramento, di divise. Anzi, in questo campo si hanno autentiche curiosità. Alcuni reparti hanno uniformi davvero vistose, dai berretti di pelo dei volontari greci sino al cappello alla Luigi XIV adorno di grandi piume e al mantello rosso degli esploratori della Plata. I loro nomi sono pittoreschi: Les Enfants Perdus, Les Ours Nantais, la Compagnie de la Revanche, le Bataillon Égalité. Tra gli altri vi è un gruppo che Giuseppe Guerzoni, patriota e scrittore, definisce con innegabile fantasia. Un cibreo cosmopolita di francesi, spagnoli, polacchi, greci, algerini, miscuglio a sua volta di guardie nobili, di soldati stanziali, di volontari, di reclute forzate, camuffati nelle fogge più strane, militari, brigantesche, eroiche, comandati da ufficiali la cui gerarchia morale andava dall'avventuriero mestierante, lancia spezzata di tutte le cause, al candido paladino dell'idea accorso a morire per la Repubblica, dal vigliacco degno di fucilazione all'eroe degno di apoteosi. E l'esercito dei Vosgi, comandato da un eroe che tutto il mondo conosce, Giuseppe Garibaldi. Guerzoni, biografo dell'eroe dei due mondi, non esagera affatto. Al comando del generale, nemico giurato di re e imperatori, ci sono volontari provenienti dai più diversi paesi, pronti a offrire i propri servigi alla neonata Terza Repubblica Francese. E se la guerra termina con la completa vittoria dei prussiani e la caduta dell'impero di Napoleone III, va detto che l'unico esercito che non subisce perdite è proprio quello di Garibaldi, che riesce a strappare l'unica bandiera dei tedeschi persa in tutta la guerra. Garibaldino convinto, tanto da indossare sempre la camicia rossa, Frédéric Auguste Bartholdi è un patriota, repubblicano, sincero amante della libertà. Dopo la disfatta di Sedan, che costa il trono a Napoleone, l'Alsazia e la Lorena vengono cedute alla Prussia. Bartholdi ne soffre come se si trattasse di una mutilazione personale, un dolore reso ancora più acuto in quanto lui vive a Parigi, mentre la madre è nella vecchia casa di famiglia a Colmar, in territorio occupato. Il giovane, che quando non combatte si diletta di scultura, frequenta il salotto di Édouard René Lefebvre de la Boulaye, professore di diritto comparato al Collège de France, liberale convinto e grande sostenitore del movimento americano per l'abolizione della schiavitù. La guerra civile americana tra Nord e Sud è costata 600.000 morti e si è conclusa con lo scellerato assassinio di Abramo Lincoln. La nostra povera Francia esce umiliata e stremata dal conflitto con la Prussia. Ora basta. Una società che possa definirsi moderna può avere le sue fondamenta solo e soltanto nella democrazia. Reclamiamo libertà per tutti gli individui e per le loro iniziative. Frédéric Auguste Bartholdi sta ascoltando le infiammate perorazioni in difesa della democrazia di La Boulaye, quando il professore espone la sua idea di regalare agli Stati Uniti, in occasione del centenario dell'indipendenza, un simbolo di libertà. Quella stessa libertà per la quale Francia e America hanno tanto strenuamente lottato. Bartholdi si sente immediatamente chiamato in causa. Lui è uno scultore. Realizzerà una statua imponente che resti a perpetua memoria dell'ispirazione libertaria francese. La sua inclinazione lo porta ad amare lavori di grandi dimensioni. Durante un suo viaggio in Egitto è rimasto impressionato dalla Sfinge e dalle piramidi. Ha studiato i lavori di Fidia, massimo scultore dell'età di Pericle, che ha creato la statua Criso Elefantina di Atena e un colossale Zeus per il Tempio di Olimpia. Ma soprattutto ha sognato, tuffandosi nelle descrizioni della leggendaria statua del Colosso di Rodi. Una delle sette meraviglie del mondo antico, come ricorda lo scrittore e archeologo Valerio Massimo Manfredi. Rodi respinge l'armata macedone. Per celebrare la vittoria, innalza al dio protettore dell'isola, Helios, la statua più grande del mondo. È la settima e ultima delle meraviglie. Frédéric Auguste Bartholdi è impressionato anche dalle grandi imprese che si compiono in quegli anni. Il canale di Suez, i trafori sotto le montagne più alte d'Europa, l'apertura di una via d'acqua che evita la circumnavigazione dell'Africa, il viadotto ferroviario di Garabit in Francia, il ponte di quasi 2 chilometri che unisce Brooklyn a Manhattan, la posa del primo cavo telegrafico sottomarino attraverso l'Atlantico. Si tratta di opere non solo utili, ma anche ardimentose, senza precedenti. Danno la sensazione che l'ingegneria e la tecnica siano in grado di dominare il mondo e di mettere sotto controllo le forze più potenti della natura. Bartholdi vive tutto questo con grande fermento. E quando la disfatta di Sedan trascina nel baratro l'impero, decretando la nascita di una nuova repubblica, egli sente dentro di sé ancora più vivo il desiderio di esprimere con la sua arte questo nuovo sentimento di libertà e di comunione dei popoli. È l'8 maggio 1871, quando scrive al professor La Boulaye. Intendo recarmi al più presto negli Stati Uniti. Ho la sensazione che questo sia un buon momento per fare una prima esplorazione su quel progetto di cui abbiamo avuto occasione di parlare. Mi sento pronto a partire per la fine di questo mese. Se la sua gentilezza volesse fornirmi alcune lettere di presentazione, credo che potrei stabilire relazioni con amanti dell'arte che portino alla commissione importanti lavori, ma soprattutto spero di poter realizzare i miei piani per il monumento in onore dell'indipendenza. Mentre il vapore Pereire, proveniente dalla Francia, entra nella rada di New York all'alba del 21 giugno 1871, quasi tutti i passeggeri dormono. Ma sul ponte, un uomo che quella notte non è andato a letto per l'emozione, sta scrivendo quello che prova, perché non vuole che qualcosa possa sfuggire un domani al suo ricordo. È Frédéric Auguste Bartholdi. Il suo entusiasmo è al massimo e non lo lascia mai. Ma non è un eccitamento cieco, al contrario, è determinato e tenace. L'immagine che si presenta ai suoi occhi arrivando a New York è splendida. L'aurora di quel mattino incantato rivela una baia ornata di alberi maestri e navi a vapore, un mare interno disseminato di vascelli che si muovono con leggiadria. Bartholdi cerca con lo sguardo, infine adocchia un luogo laddove la sua statua potrebbe ergersi imponente. Bedloe's Island, nel bel mezzo della baia, dove chi arriva ha la sua prima visione del nuovo mondo. Di questo parla subito con l'uomo più importante d'America, il presidente in carica Ulysses Grant, che lo riceve grazie a una lettera di presentazione di La Boulaye. Bartoldi è molto emozionato mentre attende il presidente, ma le parole del primo cittadino americano lo rincuorano subito. Sento che siamo all'alba di una nuova era, dove regnerà l'armonia tra gli stati federali e i confederati. Non voglio essere testimone del fallimento di questa mia speranza e voglio credere nella libertà che illumina il mondo. Il suo progetto mi pare volga in questa direzione. Frederico Auguste Bartholdi è felice. Gli auspici per il suo progetto sono più che positivi. Nei 6 mesi che si ferma negli Stati Uniti, visita Philadelphia, Boston, Chicago, Washington, Denver, Salt Lake City, San Francisco. Un tour che lo porta ad attraversare il continente americano. Ovunque egli incontra i cittadini più autorevoli, riesce a creare movimenti, gruppi che appoggino il suo progetto. Il suo viaggio di ritorno in Europa è decisamente più leggero di quello di andata. Ora lo scultore è sicuro che gli americani siano interessati e convinti di partecipare a questa avventura. La sua statua, dedicata all'indipendenza, vedrà la luce, ne è certo. Il giovane ha anche compreso un altro fatto determinante, però. La sua scultura dovrà essere qualcosa di veramente unico, impressionante. Un'opera che attiri le persone da tutto il mondo. Se così non sarà, se i suoi bozzetti e quanto egli andrà poi a realizzare praticamente non soddisferanno questa condizione schiettamente richiesta dai suoi interlocutori, neanche un dollaro uscirà dalle tasche americane per finanziare il suo sogno. Lo stesso vale per la Francia, appena uscita da una disfatta e da un traumatico cambio istituzionale. Entrambi i paesi desiderano e finanzieranno solo un'opera assolutamente unica per grandiosità e per potenza simbolica, come racconta James Meigs, direttore della rivista americana Popular Mechanics. La difficoltà di questa creazione era che da un lato doveva incarnare i valori degli Stati Uniti in maniera artistica, dall'altro doveva per forza essere un miracolo di ingegneria. Nessuno aveva mai neanche provato a pensare di costruire una statua di quelle dimensioni. La grandiosità che Frederico Augusto Bartholdi sta cercando, l'immensità della statua che dovrà andare a realizzare, si scontrano con le tecniche dell'epoca. Il suo omaggio all'indipendenza l'ha immaginato molto bene nella sua mente. È una donna, la rappresentazione della dea della libertà. Un monumento impressionante anche a prima vista per la sua maestosa imponenza, ma anche il volto di una donna che incarni il simbolo dell'accoglienza, della fratellanza. Imponente ma ben descritta nelle fattezze. Due caratteristiche difficili da coniugare. Come può Bartholdi creare una statua che ricordi le dee cesellate dal Canova, da Fidia, dagli antichi scultori dell'Ellade, ma riprodurne la bellezza in dimensioni mai azzardate da alcuno scultore? C'è solo un uomo che possa aiutarlo, un uomo che dia all'anima della sua statua quella solidità che permetta di rimanere eterna per le generazioni future. Destini incrociati. Congratulazioni, colonnello. Finalmente sono in quarantena. Ma forse ci sono superstiti. Il contagio potrebbe ancora diffondersi. Forse. O forse no, se la sua teoria dell'ossigeno è esatta. Quello stesso ossigeno avrebbe causato una terribile esplosione in tutte le carrozze. Beh, lei l'aveva detto. Aveva calcolato tutte le evenienze. Dottoressa Stradler, lei mi considera una specie di mostro, vero? Non si lusinghi troppo, colonnello. Lei è solo una piccola rotella in un grosso ingranaggio. Lo so, oggi non è più di moda essere un militare. Ma è il mio lavoro e so di farlo bene. Questo glielo riconosco. Il mio compito era evitare il contagio. Non solo la malattia, ma l'idea stessa del male. Se lei disfa quello che io ho fatto quando esce di qui, quella gente avrà veramente sacrificato la vita per niente. È una scena di Cassandra Crossing, il film del 1976 con Sophia Loren, Richard Harris e Burt Lancaster, che narra la storia della folle corsa di un treno a bordo del quale viaggia un terrorista infettato da un terribile virus incurabile. Il treno viene dirottato dalle autorità e finisce la sua corsa sul ponte che dà il nome al film, il Cassandra Crossing, appunto. Ma se questo ponte è frutto della fantasia degli sceneggiatori del film, la scena del disastro ferroviario è stata girata su di un ponte realmente esistente, uno dei più spettacolari esempi di costruzione in ferro, il viadotto di Garabì, ardita costruzione ad arco che varca la vallata del fiume Truyère nel territorio di Rouyn-en-Marguerite in Francia. Costruito fra il 1880 e il 1884, il viadotto è tuttora in perfetta efficienza e viene regolarmente utilizzato per il transito ferroviario. E quest'opera incredibile è ancora più imponente e geniale, visti gli anni in cui è stata costruita, che colpisce enormemente lo scultore Frédéric Auguste Bartholdi. Il grande artista francese sta progettando la realizzazione di una statua di dimensioni gigantesche, la quale verrà regalata dalla sua patria agli Stati Uniti d'America in occasione dei festeggiamenti del centenario dell'indipendenza. Anche se Bartholdi vede il viadotto di Garabì solo in fase iniziale di costruzione, ne rimane talmente colpito che chiede di poter incontrare l'ingegnere responsabile del progetto. Il suo nome è già abbastanza conosciuto negli ambienti francesi. E Alexandre Gustave Eiffel. Alexandre Gustave Eiffel. L'incontro fra Bartholdi ed Eiffel avviene a Parigi, dove entrambi risiedono. I due sono praticamente coetanei, ma per il resto le similitudini nelle loro esperienze professionali e di vita si fermano lì. Se Bartholdi è un patriota, un soldato e un artista, Eiffel ha invece maturato esperienze totalmente opposte. La famiglia Boenighausen è originaria della Renania, ma si trasferisce a Parigi nel XVIII secolo. Un antenato, ritenendo il proprio cognome difficilmente pronunciabile per i francesi, lo cambia in Eiffel dal nome della regione di origine della famiglia. Il padre di Gustave è un ufficiale, la madre un'imprenditrice del legno con una notevole fortuna personale. Il ragazzo dimostra immediatamente una spiccata tendenza per le materie tecniche in generale. Per questo i genitori lo indirizzano verso l'École Polytechnique, dove senza grandi fatiche Gustave si laurea in ingegneria chimica. Il giovane ingegnere si impiega alla polveriera di Châtillon-sur-Seine, poi passa alla Compagnie des Chemins de Fer dell'Ouest. Qui conosce Charles Nepveu, imprenditore specializzato nelle costruzioni metalliche che, grazie ai progressi della metallurgia, conoscono una grande diffusione. In quest'uomo Gustave Eiffel vede l'incarnazione di un nuovo mondo, di un modo diverso di concepire le costruzioni, e grazie alle sue iniziative riesce a realizzare una serie di progetti davvero interessanti. Fra i tanti, il ponte Saint-Jean a Bordeaux, sulla Garonne, una delle prime costruzioni in ferro considerate per quei tempi una follia. Il faut dire que beaucoup de Parisiens ne connaissent la tour que par leur petit cousin ou alors par le vieil oncle à ermitage qui est monté à pied jusqu'au troisième étage. Ah, ah dit-il, c'est beau, c'est merveilleux, madame. Quand on est là-haut, on peut voir tout Paname. Et le Parisien se dit tiens, tiens, tiens, j'irai la voir demain. L'ingegnere Gustave Eiffel ha solo 26 anni nel 1858. Eppure gli viene affidata la direzione del cantiere del ponte Saint-Jean sulla Garonne, all'altezza di Bordeaux. Forse la maggior parte dei giovani ingegneri che hanno studiato con lui potrebbero sentirsi intimoriti da un incarico del genere, ma non lui. Certo, si tratta di un'impresa ardita, 509,69 metri di lunghezza. Un ponte molto difficile da costruire, ma lui non si spaventa per niente. Per i piloni delle fondamenta, costruite da anelli di ghisa di 3 metri e mezzo di diametro, Gustave impiega per la prima volta nella storia delle costruzioni l'aria compressa. L'impegno è molto gravoso, si lavora a 16-17 metri di profondità e Gustave è estremamente concentrato. Improvvisamente un urlo. Uno degli operai è caduto nel fiume in piena. Eiffel si sente responsabile di tutto quanto avviene nel cantiere che dirige. Senza pensarci su, si tuffa in soccorso del suo operaio e riesce a trarlo in salvo. Non si sente un eroe, riflette invece a lungo sul significato di questo incidente. Servono misure standard di comportamento nei cantieri e da quel giorno in poi fa sempre legare i suoi uomini quando compiono azioni pericolose, rivelandosi un innovatore anche in questo campo, come risulta dalle sue annotazioni. Le grandi imprese del nostro secolo stanno trasformando il lavoro dell'uomo. Non si può prescindere da un accurato controllo della sicurezza sul luogo di lavoro. Abbigliamento, scarpe, copricapo, ma non solo. Legacci che tengono gli uomini ben saldi. Una società che vuole andare verso la conquista del futuro deve saper difendere i propri lavoratori. Geniale e innovatore della siderurgia di fine secolo, capace di dare al ferro quella leggerezza tutta particolare che si riconosce nelle gettate grandiose dei suoi ponti, ma anche abilissimo calcolatore e grande conoscitore dell'aerodinamica, Gustave Eiffel è per Frédéric Auguste Bartholdi l'unico al mondo che possa aiutarlo nella sua impresa grandiosa, la costruzione della Statua della Libertà. Lo scultore è consapevole del fatto che il monumento debba essere visibile da lontano, una figura che sia un tutt'uno e impressioni a prima vista per la sua imponenza. Ma questo non può bastare. La Statua della Libertà deve incarnare lo spirito dell'indipendenza americana e dopo 100 anni di ininterrotta esistenza, essa non può essere rappresentata come un'indomita fanciulla che lotta, ma come una donna ormai matura, calma, che avanza con il passo sicuro e leggero del progresso. Non la libertà come anelito al cambiamento, come affermazione rivoluzionaria, ma come dato di fatto divenuto ordinamento e legge. Bartholdi sta raccontando tutto questo a Eiffel, che lo guarda ammirato. La sua passione è sicuramente coinvolgente. Quel giovane che si trova di fronte è uno scultore, nulla a che vedere con lui, un ingegnere tutto d'un pezzo. Bartholdi è un sognatore, un garibaldino. Gli mostra perfino una lettera del suo ispiratore, il professor Laboulaye. La statua simbolo dell'indipendenza deve significare che la libertà vive solo nella verità e giustizia, nella luce e nella legge. Questa è la libertà che vogliamo e che resterà per sempre simbolo di alleanza tra l'America e la Francia. Belle parole, pensa Eiffel. Ma come trasformare tutto questo in una statua vera? Bartholdi gli parla di un gigante di almeno 50 metri di altezza, da collocarsi sopra un piedistallo altrettanto alto, al centro di un'isola nella baia di New York. Di certo non è uno scherzo. I due giovani si mettono seduti uno di fronte all'altro, alla scrivania di Bartholdi. Di che materiale realizzare la statua? Fusa in bronzo raggiungerebbe le 300 tonnellate con tutti i conseguenti problemi di stabilità, di dimensioni del piedistallo, di fondamenta. Eiffel ha già in mente come fare, anche perché lo scultore gli rivela che vorrebbe realizzare la statua in rame. Un'idea sta prendendo forma nella mente dei due uomini e con essa l'immagine di quello che sarà il futuro panorama che milioni di persone di tutto il pianeta vedranno arrivando nel nuovo mondo. È meglio una delusione vera di una gioia finta, ma quando la delusione cresce la pressione aumenta. Sarà che la pioggia batte forte sulla mia finestra, sarà che alla fine della notte mi chiedo cosa resta. Però poi arrivi tu, ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere. E tutto sembra già possibile per me, preso dentro al buio che avanza. Destini incrociati. Una giovane donna, Emma Lazarus, la cui famiglia era stata perseguitata, colse la sfida della nuova era. Anche se era una poetessa, lottò per migliorare la qualità della vita dei suoi simili, la loro salute, la possibilità di avere una casa e, ispirata da quello che aveva visto in America, creò dei versi che donò per finanziare la costruzione di una nuova statua, la Statua della Libertà. Realizzata anche grazie a piccole donazioni della gente di tutta l'America, anni prima che la statua fosse costruita. Barack Obama, presidente degli Stati Uniti d'America, in un recente discorso sull'immigrazione in America, racconta la genesi della Statua della Libertà. Pensata quale dono da parte della Francia rivoluzionaria alla nascente nazione americana in occasione del centenario dell'indipendenza, la statua viene ideata dallo scultore e patriota parigino Frédéric Auguste Bartholdi. La maestosità e le dimensioni assolutamente uniche della sua ideazione rendono necessario l'intervento di qualcuno che sappia trasformare un bel sogno in realtà con la concretezza di una struttura che possa reggere le dimensioni della statua. Quasi 50 metri di altezza su un piedistallo di 47. La solidità della struttura è fondamentale ed è per questo che Bartholdi decide di incontrare Gustave Eiffel, ingegnere di Parigi che ha al suo attivo una serie di costruzioni in ferro di notevoli dimensioni e che dimostra nel suo campo una conoscenza profonda e un'abilità tecnica unica. Eiffel e Bartholdi sono due uomini molto diversi tra di loro. L'uno ingegnere di estremo rigore e grande studioso della mentalità concreta. L'altro un sognatore, un patriota e un artista. Ma in realtà sono molte le cose che li accomunano. L'amore per le grandi imprese, la tenacia e la passione che da subito mettono nell'impresa che li vede uniti. Eiffel ha già le idee molto chiare. Non è nemmeno da pensare a un pilone in muratura che sorregga la statua. La renderebbe poco elastica e la Nostra Signora deve essere duttile, piegarsi al vento della baia ma non spezzarsi. Un'altezza complessiva di quasi 100 metri la espone a grandi sollecitazioni. Devo trovare una soluzione alternativa che la renda fortissima dentro ma possa seguire le fattezze che la sua arte le imporrà. Proprio quello che ci vuole. Bartholdi è al settimo cielo. Tutto pare procedere per il meglio. Ormai la sua idea della statua è formata. Sarà di rame. Nella mano destra sollevata terrà una fiaccola, la luce che illumina il mondo, che funzionerà anche come faro di posizionamento per l'ingresso alla baia di New York. Nella mano sinistra, Lady Liberty, come viene ribattezzata ben presto, reggerà il grande libro della legge, con incisa la data del 4 luglio 1776, il giorno dell'indipendenza. Nel frattempo, Gustave Eiffel sta pensando alla struttura portante della statua e ha una folgorazione davvero geniale. La costruzione interna si compone di un'anima in ferro formata da quattro barre leggermente convergenti verso l'alto, che vanno dal livello della base al collo. Unite solidamente tra loro da travature incrociate, le quattro barre formano un corpo unico di forma tronco piramidale, con una capacità di resistenza unica. Dall'estremità superiore parte una seconda travatura che sorregge il braccio destro levato in alto con la torcia che illuminerà il mondo. L'invenzione davvero geniale di Eiffel nella realizzazione della Statua della Libertà è qualcosa di assolutamente innovativo. Per connettere la pelle della statua allo scheletro interno, l'ingegnere disegna una serie di travetti laterali che partono a distanza regolare dalla struttura. Essi rappresentano la congiunzione tra lo scheletro e il rame. Sottili barre d'acciaio assicurate da un lato alla travatura, dall'altro ad altrettante linguette flessibili d'acciaio, saldate alla superficie interna della pelle. Vere e proprie molle, che permettono al rame di dilatarsi o di restringersi con la temperatura, di flettere sotto la spinta del vento, di reagire in modo duttile, resistendo solidamente ma senza rigidità. Il lavoro viene eseguito a Parigi, nell'atelier al 25 di Rue de Chazelle, nel 17° arrondissement, di proprietà della ditta Gaget e Gautier, specializzata in lavori di grandi dimensioni. Qui ogni giorno Bartholdi ed Eiffel si incontrano, valutano gli sviluppi, seguono con pazienza la nascita di Lady Liberty. La grandiosità dell'opera è lì sotto i loro occhi. Per curiosità, Bartholdi si fa aiutare dall'ingegnere a misurare il dito della mano destra che regge la torcia, 2,5 metri. Il laboratorio diventa presto meta di fotografi, reporter e curiosi che vogliono vedere questo grande prodigio dell'arte e della tecnologia. Tanto che la ditta Gaget realizza delle riproduzioni in miniatura della statua, che vende col proprio nome anche oltreoceano. Ma gli americani faticano a pronunciare la parola gadget e la storpiano in gadget, creando il noto termine. In Rue de Chazelle, tra gli altri visitatori, giunge l'oramai 80enne Victor Hugo, che stringe amabilmente la mano a Bartholdi ed Eiffel, prima di pronunciare anche alcune parole adatte alla circostanza. L'immenso e inquieto mare è ora testimone dell'unione di due grandi paesi tranquilli. Questo magnifico lavoro incoraggia ciò che ho sempre amato, la pace tra l'America e la Francia. Francia che vuol dire Europa. Possa essere questo un pegno permanente di pace. Mentre le squadre di operai e carpentieri agli ordini di Eiffel e Bartholdi sono al lavoro, il Comitato per l'Unione Franco-Americana, guidato da Laboulaye, si dà da fare sia in Francia che in America per reperire i fondi necessari a finanziare l'impresa. Sono molte le azioni che vengono ideate, compresa quella che vede in prima persona l'impegno della poetessa Emma Lazarus. La mossa conclusiva di questa lunga operazione finanziaria è la creazione di una lotteria autorizzata dal Ministero degli Interni americano, dotata di ricchi premi, che consente finalmente di raccogliere la cifra necessaria. E così, all'inizio del 1884, la libertà che illumina il mondo, interamente montata nel cortile dello stabilimento di Parigi, sovrasta con la sua mole tutti gli edifici del 17° arrondissement. Il dono della Francia è pronto per essere regalato ufficialmente agli Stati Uniti d'America. Il 4 luglio 1884, in occasione dell'anniversario dell'indipendenza, nel cortile della Gaget e Gautier, la statua viene ufficialmente consegnata dalle autorità parigine all'ambasciatore americano Morton. La stretta di mano che si scambiano Eiffel e Bartholdi è il coronamento del loro sogno e sancisce un atto la cui importanza si delineerà meglio negli anni a venire, come sottolinea Tom Brocklow, giornalista della NBC ed esperto di storia americana. Credo che la Statua della Libertà abbia acquistato importanza con gli anni. Non sono così sicuro che all'inizio ci si rendesse ben conto del significato di questo meraviglioso dono dei francesi e il significato che avrebbe avuto per questo paese. Ma per i milioni di migranti che sono passati di lì e la avvistavano, era il simbolo della speranza. Sapevano di essere arrivati nella terra promessa. Trasportare la Statua della Libertà da Parigi a New York non è impresa da poco. Bisogna smontare da capo l'intera opera, compresa la struttura interna, chiudere ogni singolo pezzo in una cassa di legno numerata per facilitare il riassemblaggio, un'incombenza che l'ingegnere e lo scultore si dividono con grande collaborazione. Le casse vengono poi caricate sull'Isère, nave della Marina Militare francese, scortata dalla Flory, della Marina americana, che levano le ancore il 21 maggio 1885. È una calda e solare mattinata, quella del 17 giugno successivo, quando le due navi fanno il loro ingresso nella baia di New York. Eiffel e Bartholdi guardano contemporaneamente in direzione del piedistallo che attende la loro Miss Liberty, sulla Bedloe's Island, oggi chiamata Liberty Island in suo onore. Da quel momento in poi, chiunque arriverà a New York, come stanno facendo loro, riceverà il benvenuto dalla libertà che illumina il mondo. Per loro che hanno compiuto questo miracolo, il futuro riserva onori e gloria. Federico Auguste Bartholdi entra nella leggenda come uno dei più grandi scultori di tutti i tempi. Gustave Eiffel trarrà da Miss Liberty un tale credito da riuscire a realizzare solo pochi anni dopo, nel 1889, il suo sogno di sempre. Una torre di ferro che domini la sua città, l'amata Parigi. La Tour Eiffel, che oggi è il simbolo per tutto il mondo della Ville Lumière, si stringe in un abbraccio ideale con Miss Liberty. Anche se le divide l'oceano, esse sono l'anima della stessa passione. Somebody.